augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro. Le 21 quando mi state ascoltando, questa è Le Dita nella Presa, la trasmissione di Radio Onda Rossa che vi parla di tecnologia e a volte anche qualcosina in più. Una radio che ha appena compiuto 48 anni. Potete scriverci alle dita nella presa @ondarossa.info. Potete anche trovare tutti i nostri archivi su il sito ondarossa.info cliccando su palinsesto e poi da lì sulle dita nella presa. Potete però in questo momento telefonarci perché ci state ascoltando sicuramente in replica. Infatti domenica 25 maggio è l'ultima giornata della 3 giorni di festeggiamenti per il compleanno di questa emittente che vive autofinanziata, autogestita per l'appunto da 48 anni, come dicevamo, e per questo motivo non potevamo essere in radio, ma visto che non solo saremmo mancati appunto domenica 25 maggio, ma che mancheremo anche la nostra partecipazione in diretta, quanto meno nelle 2 domeniche successive, quindi nelle prime 2 di giugno, che sono il 1° giugno e l'8 giugno, credo, allora abbiamo pensato di mandarvi comunque un audio registrato per diminuire la vostra assenza e quindi rallentare i sintomi dell'astinenza dalle dita nella presa. Veniamo quindi al primo argomento della puntata di oggi, una puntata che avrà 3 argomenti principali. Mi permetto persino di fare l'indice come se fossimo in un libro, visto che di libri parleremo, no? Però ce li teniamo per dopo. Ci mi permetto di fare l'indice perché oggi parleremo di gancio di Roma, o Roma convoca là, in base a come vogliamo chiamarlo, si presta a più definizioni, ma insomma comunque strumenti autogestiti. Parleremo poi di pedagogia hacker e parleremo infine dell'esperienza di Gaza Web. Allora, dicevamo, il primo argomento della puntata di oggi è la nascita, che dire, ufficiale, non so come dirlo, esisteva anche da prima, di Gancio di Roma. Sicuramente un evento significativo è stato l'assemblea dell'8 maggio che c'è stata ad Acrobax e che, sì, secondo me ha un po' ufficializzato e anche però dato un po' una forma a un qualcosa che stava già emergendo, non so dire spontaneamente. Beh, diciamo che è stato il momento in cui le persone si sono viste insieme e hanno deciso che era un'esperienza che poteva diventare ufficiale, che poteva essere prendere il via e smettere di essere questa cosa sperimentale o solo sperimentale. Cioè, non si finisce mai di sperimentare, però diciamo da quel momento in poi ci sono state un tot di persone che si sono anche accollate il fatto di mandare, il fatto di gestirlo, di gestire questo software, questa agenda. Intanto diciamo che cos'è. Diciamo di cosa stiamo parlando, cosa è importante. Esatto. Parliamo di, a livello di indirizzo, no? Se volete cercarlo, è roma.convoca.la, quindi Roma Convocala. E quindi questo è l'indirizzo che potete aprire per sapere di cosa stiamo parlando, e che magari metteremo anche nei link dell'articolo per renderlo ancora più semplice. E di che si tratta? È un'agenda condivisa della Roma Ribelle, nella quale troveremo tutti gli eventi, tutte le iniziative, i cortei che vorrete e vorremo inserirle, perché... Eh sì, per esempio adesso io lo apro in questo momento, che però, diciamo, siccome la puntata è registrata, sono nel passato rispetto a voi, quindi ho fatto la parte facile del viaggio nel tempo, l'altra versione è quella più difficile, e quindi vedo per esempio che domani pomeriggio, ho letto male l'orario, c'è un presidio al Faro del Gianicolo, un presidio quindi diciamo fuori per parlare con le persone che sono recluse a Regina Coeli, e in particolar modo in solidarietà con Tarek, no? Che è stato arrestato dopo la manifestazione del 5 ottobre, e così come vedo questa ne vedo tante altre, no? di iniziative, quindi un'agenda di movimento sostanzialmente. Un'agenda di movimento che non si alimenta perché una redazione, o non soltanto, o non dovrebbe, perché una redazione decide di inserire gli eventi della prossima settimana o del prossimo mese. Per quello è importante capire che è un'agenda condivisa, nel senso che ci trovate quello che ci mettete. Sì. Come nella zuppa, ci si trova quello che ci si mette, e diciamo però ci si trova anche in qualche modo, c'è anche tutto quanto l'aspetto, perché c'è comunque un aspetto che forse non definirei proprio redazionale, no? come hai detto tu, però comunque c'è un aspetto poi di cura che è quello, secondo me, che in effetti, no, ha fatto la differenza in questa assemblea che si è incontrata. Perché, come dire, no, uno in astratto potrebbe dire: vabbè, ma quindi io faccio, no, uno strumento tecnico che permette che le cose si carichino e questo basta, no? E la realtà è che questo invece non basta mai, perché, no, come dire, perché poi in ogni strumento serve, è sempre difficilissimo, no, definire che cos'è che è utile pubblicare lì dentro e che cosa invece no, che cosa invece è meglio non pubblicare, o che spazio dargli, o che scelte, no, diciamo, di contenuto, di categorizzazione, no, di fruizione fare. Tutte queste scelte sembreranno anche mere scelte tecniche, ma come noi sappiamo sono sempre politiche. No, a me è piaciuto il fatto che tu hai detto prendersi cura, perché, perché non si tratta semplicemente... Non sono stato originale, mi sembra. Non sei stato originale. però mi è piaciuto lo stesso, perché ti devo dire, insomma. Sì. Perché, diciamo, non si tratta, di, a mio parere, di una mera moderazione, cioè questo evento è in policy, quindi lo inseriamo, quest'altro lo lasciamo, questo non è in policy, quindi lo nascondiamo. La questione invece è proprio che collettivamente ci si prende cura di uno spazio comune e si definiscono le regole del gioco, cosa che non è possibile fare con le varie agende di Facebook, di Instagram o di qualsiasi altra multinazionale. E qui secondo me torniamo un po' a perché nasce Gancho, insomma, perché nasce roma.convoca.la. Ma senti, secondo me, come dire, no, ci sono sempre più risposte a questa domanda in particolare, non so se addirittura a tutte, forse è una affermazione troppo generale per permettermela, però secondo me, come dire, c'è proprio un'esigenza magari, no, strettamente politica, che questo avvenisse, no? Quindi una risposta, no, per quanto magari anche... semplice, no, alla frammentazione politica, e però c'era proprio anche un tentativo di risposta alla frammentazione, secondo me invece tecnica, che è stata imposta dallo strapotere delle multinazionali, in cui che sappiamo che, diciamo, senza dilungarci troppo, grosso modo, tanto peggio noi ci troviamo, tanto meglio loro si trovano, no? Perché più, se fosse facilissimo trovare le informazioni, noi passeremo poco tempo sulle loro piattaforme e questo gli darebbe pochi soldi, quindi quindi no, la dispersione dell'informazione fa parte della strategia comunicativa di questi media che si fanno chiamare social e che diciamo sì, alludono a questo mondo, ma poi questo sono. Sì, volevo aggiungere una cosa sul lavoro che fanno i social media nello smantellare le strutture politiche sociali, diciamo, perché incredibilmente, come diceva prima Graffio, incredibilmente è più facile pubblicare eventi e pubblicizzare, promuovere i propri eventi su Facebook, perché lì non prendi nessuna decisione. C'è una delega politica che dai a chi è il proprietario della piattaforma, ci sono delle regole e tu le accetti. Quando invece devi scegliere sulla piattaforma che hai sviluppato te, sul tuo territorio, quali sono quelle regole, la delega salta e ti devi mettere a fare politica. E se ci mettiamo... Tocca fare un'assemblea. Evviva! Prima non serviva. Forse era un po' che meglio, però ecco, succede che smettiamo di fare politica. Certo, certo. Non so se vogliamo, però abbiamo detto che c'è un'agenda. Io ho raccontato quello, no? Ho detto una cosa che posso dire un'altra cosa? Certo. Scusami, perché io concordo perfettamente, non poteva che essere così. È incredibile, i presenti in questa trasmissione sembrano concordare su tutto. Certo. Però c'è un'altra questione che io... anche sull'efficacia del andarsi a... Perché l'obiezione tipica delle persone, forse l'ho certo, già detto, è brutto ma funziona. È brutto ma funziona, non solo, ma poi io lì trovo tutto. Certo. Ecco, allora, su questo trovo tutto, in realtà, noi nel tempo, e non solo noi, perché poi ci sono degli studi che hanno fatto delle ricerche, non è proprio così vero, perché trovo tutto se le cose stanno nella mia timeline, se i tizi non sono andati non sono stati messi in showdown, quindi non è vero che l'efficacia di questi strumenti rispetto agli strumenti autogestiti non è affatto detto che sia maggiore. Non è solo un tema, quindi, che secondo me è più importante, che è quindi politico, di ricostruire gli spazi propri, di ricominciare a fare politica anche sì. Da questo punto di vista. È una falsa contraddizione. Esatto. Questo. No, sono d'accordo. Io volevo dare una... Per quanto diciamo prima, esatto, per il fatto che è facile essere d'accordo tra chi si è visto apposta perché era d'accordo. E volevo anche però dire due cose su come si fa ad usarla, perché abbiamo detto che io vado e ci trovo un sacco di informazioni piuttosto fruibile, no? La vista è, diciamo, molto pratica da utilizzare, tra l'altro... Lo dico perché non è mai scontato, magari sarebbe auspicabile il contrario, non è comodo da utilizzare anche da device mobili, quindi da smartphone, è un vero, sito ben vero. Fatto, no, è facile dire ma io non mi interessa sapere tutta quanta la lista, voglio sapere soltanto che cosa fanno in questo posto, in questa data, no? Quindi magari no, non passate spesso da Roma perché magari vivete fuori mano, ma ci sarete, no, invece il 7 giugno. Dite, ma cosa c'è il 7 giugno? No? È facile da utilizzare, ma dicevamo che però è anche importante che le persone mettano sopra i contenuti. Allora uno potrebbe dire, ma allora come ci sono finiti questi, no, questi contenuti lì sopra? Quindi funziona, mi devo installare delle cose, no? Dovrò accreditarmi presso... No... come funziona? Funziona in realtà in una maniera, come dire, adesso forse a dirla, no, come dire, mi chiedo se per chi mi ascolta quanto sia naturale questa cosa, ma in realtà il modo per caricare un evento è semplicemente cliccare sul pulsantone molto grande che c'è scritto aggiungi evento e poi lì... Se sai fare un post Instagram o se sai creare un evento Facebook, è ancora più facile creare un evento su Gancho de Roma. Sì, è davvero molto facile. Una nota da dire, che per chiarezza, è che quando andrete così, aggiungerete un evento, non sarà immediatamente visibile, perché gli eventi su Gancho di Roma partono nascosti, sono quindi in attesa di una persona, tra le tante amministratrici e amministratori, che lo sblocchi. E questo ovviamente per evitare, diciamo, che ci sia spam o comunque cose non interessanti, non significative. Però potete anche chiedere invece un account, quindi non è necessario avere un account, se dovete aggiungere una cosa che fate potete fare così e basta, però potete anche invece registrarvi. La registrazione funziona in maniera simile, quindi quando gli chiedi di registrarti sei in moderazione, però sei in moderazione, diciamo, una volta per tutte, e quindi, diciamo, di nuovo dovrai essere... Sei in moderazione intendi il fatto che ti registri e qualcuno deve dire ok, ti sei registrato, ora può, da adesso in poi puoi inserire da solo i tuoi... Da solo come prima, ma li vedi direttamente. Sì, ci sono parecchi vantaggi nel farsi un utente. Quindi, diciamo, se avete già iniziato a prendere la mano con gancio e varie volte avete pubblicato cose, il passo successivo è quello di farsi un utente, perché quando ti fai un utente le cose poi, quando le carichi, sono visibili immediatamente e possono comunque essere nascoste, chiaramente, no? Se si ritiene che siano non adatte al luogo in cui si trovano, però sono visibili immediatamente. Potete, anche questo a volte è carino, potete modificare le cose dopo, quindi tipo, no, se stai avendo un'iniziativa ma in realtà ancora non è chiaro poi a sto concerto l'ordine delle persone che suonano. Un momento, se è aggiunto il gruppo tale che viene a suonare e fa una sorpresona e tu la puoi aggiungere. Dovrei scrivere che causa pioggia, il concerto è spostato, no, ma comunque ci sarà, potete aggiungere una serie di informazioni, questo no, lo potete fare, se avete un utente, perché potete modificare i vostri eventi e un'altra cosa che, diciamo, può comunque aiutare è che questo mi sto facendo dei segni, ma te li lascerò dire di persona perché non ho proprio capito che cosa mi volevi dire. Un'altra possibilità che c'è è che se ci sono magari dei problemi per cui le moderatrici stanno valutando di nascondere il tuo post perché sembra fuori policy, se hai un utente possono scriverti e possono dirti tipo ci sembra di capire questa cosa, ci dai conferma, perché altrimenti magari nasconderemo questa. Anche può essere uno strumento interessante. E poi gadget, si possono fare le locandine? Si possono fare le locandine, certo, perché è bello il digitale, però bello... Un po' di cartaceo, guardiamo sui muri, andiamo per strada, negli nostri spazi sociali, dove... Quindi, allora, io dovessi stampare un sito, allora, tolta chiaramente, no, la possibilità di mettere sopra la fotocopiatrice, no, uno smartphone, o tanti smartphone, no, e li affianco, no, e fotocopio, no, una collezione di smartphone. Oppure, come posso fare? Trascrivo tutto quanto a mano... Ma in realtà proprio chi ha sviluppato Gancho l'ha pensato per te, cioè ha fatto un pulsante che organizza la tua locandina, e nella locandina ci puoi mettere tutti gli eventi che ci saranno nello spazio sociale che ti interessa, tutti gli eventi della settimana, puoi decidere te quali eventi andranno sulla locandina e esci fuori con un formato a 4. A 3. Cioè probabilmente anche a 4, però diciamo è fatto più pensato per la 3. Se vai tutto in fondo, infatti, se vai tutto quanto in fondo, ci sono, diciamo, quei classici link a cui in genere nessuno ci guarda, tipo About, altre agende, guarda, informazioni sì. Varie, e c'è il generatore di volantini. Il generatore di volantini è una paginetta in cui ti permette facilmente di comporre una pagina, quindi tu selezioni gli eventi che ti interessano, quelli, no, quelli di più, quelli di meno, quelli più recenti, quelli più lontani. Puoi anche un pochino personalizzare la vista, insomma, hai un minimo di personalizzazione e poi quello ti fa una pagina che stampi e quindi puoi fare le locandine molto praticamente, diciamo, no? Quindi se vuoi, no, quando fate, non so, la sistema di gestione o quando no, andate a tacchinare per altri motivi, tu puoi andare, ti stampi la pagina, stampi 15 copie di questo coso e te le stampi e te le metti, insomma, in giro. Sì, perché il tema è... mi hanno detto che è bruttissimo dire il tema è, perché è una cosa proprio che dicono tutti i politicanti. Vabbè, comunque, la questione è come si può aiutare a diffonderlo, perché la questione della massa critica, quindi non è banale, no? Quindi è chiaro che sì, lì io devo dire che già adesso mi sembra che facendo una ricognizione, cioè grosso modo tutto quello che avviene nel movimento, per quello che riesco a sapere, a starci dietro. Quindi, però, con l'esclusione di quello che tu non sei riuscito a sapere, esatto. L'algoritmo così ha deciso. Quindi raggiungere la massa critica vuol dire usarlo sempre di più, sia perché sempre più persone inseriscono i propri eventi, le proprie iniziative, i propri appuntamenti, sia perché sempre più persone vanno a vedere su roma.convoca.la quali sono gli eventi che ci sono. E quindi come facciamo? Bisogna diffonderlo, bisogna spingerlo, E questo di stampare le locandine e di andare nei propri spazi e attaccarle muniti vecchio stile locandina e scotch, anche al bar dove andate a pranzare quando per caso lavorate fuori casa. E questo è un ottimo sistema, insomma, cioè, ce lo fornisce il software, che è software libero, perché certo, diciamolo anche questo, perché il software è stato sviluppato da uno sviluppatore che diciamo naviga nel giro Hack Meeting, che sarà tra l'altro a brevissimo, che c'è stato già quando ci ascoltate. Beh, dipende, dai. Se ci ascoltano sta domenica, vabbè, è inutile che parliamo indietro nel tempo, risulterebbe una discussione, vabbè, comunque, straziante. Esatto. È 30, 31 e 1 giugno, quindi 30, 31 maggio e 1 giugno a Cagliari. Se questo è nel passato o nel futuro, 2025 chiaramente. 2025. Se questo è nel passato o nel futuro, solo voi potete saperlo, noi non lo sappiamo. Noi non lo sappiamo, in questo momento non lo sappiamo, va bene. Comunque è uno sviluppatore che ha fatto questo software libero, che viene dal giro del che si raccoglie intorno all'Hack Meeting, e quindi... E che poi su questo sono aggregate, no, anche poi tante altre realtà, per cui, no, la stessa Convoca.com, diciamo, no, è un sistema che supporta, no, la nascita di gancio locali, che viene fatta da alcune compagnie che si trovano soprattutto nella penisola iberica. E il sistema che stampa i volantini è stato fatto soprattutto da compagnie dell'Hack Club di Bologna. Chiaramente, come spesso succede nel software libero, ma come poi succede nelle comunità reali, no, che hanno delle, che si incontrano su delle pratiche politiche, c'è naturalmente della collaborazione su degli obiettivi comuni, e quindi, insomma, diciamo uno strumento digitale, ma non solo digitale, in cui mettere gli appuntamenti. Io, se non hai altro da aggiungere, sì, invece ce l'ho, perché come avrete capito non è che lo stiamo usando solo noi. Sì. È uno strumento che ormai comincia ad essere veramente molto molto usato, appunto, come dicevamo, su base locale. Lo usano a Torino, lo usano a Bologna, lo usano a Napoli, lo usano a Barcellona, lo usano a Madrid, sono lo, troppe da nominare. Sono lo usano a Berlino, lo usano in Italia. Comunque sono veramente moltissime. Noi arriviamo anche un po' diciamo con la classica flemma romana, ma stiamo arrivando.